Los italianos tienen que saber que la cumbia es el futuro, así que. Pasto biscum donna. Apetito di. Pusimos toda la música tropical bajo un techo y le pusimos salsa. La esquina del sol. Parole musica dell'America Latina. Los paramilitares desaparecieron a mis dos hijos en el 2 de febrero del año 2003. Y hasta la presente no sé dónde estarán. Las madres de Plaza de Mayo tomaron la Catedral Metropolitana para aunar en protesta por la falta de entrega de fondos estatales destinados a sus proyectos de viviendas populares en la capital argentina. La esquina del sol, tu pincio vedi, dalle 17. E allora io vi avevo avvisato che anche oggi ci stavo, quindi sapete quello che vi aspetta. 17 minuti, lo sapete, a me queste cose proprio non mi tangono. Più che piovere, che può succedere? Che può succedere? E allora ben trovati anche per quest'oggi dagli 87.9 di Radio Onda Rossa per questo appuntamento con l'Esquina del Sole. E qualcuno già lo sa perché l'ho avvisato tramite queste mostri qua che ci fagocitano la testa e le mani sulle tastiere, chiamati social network. Ebbene sì, ci sono cascata anch'io. Se ci riesco saluteremo Franca Rame, così come mi ha ispirato, così risentendo tante cose, insomma il saluto mi sento di doverglielo fare. E poi abbiamo degli ospiti anche oggi, non si tratta di musica latina ma sempre di musica si tratta, come sapete quella che mi piace suonata, no creata al computer oppure prendendo la musica di altri e facendone altro, che insomma va bene, ma se uno è possibile, è vero, c'è un po' di differenza. In più sto giovani, quindi proprio questa cosa ci sta benissimo. E allora intanto diamo inizio alle danze, un po' così che mi serve un po' di tempo, eh? Va bene, allora direi che come al solito questa radio mi boicotta, non c'è niente di nuovo, ecco. Allora, ho scoperto chi era che mi boicotta e allora vediamo se riesco a fare quello che volevo, eh. Ho perso il figlio nella grande maratona. Avevo perso il figlio mio. Mi rispondevano tutti i figli delle altre mamme, il mio nome. No, non sei tu. Gli davo due baci, lo mandavo via e cercavo figlio. Ad un certo punto, padre, non ti vedo il mio figlio personale. Al di là della strada, in mano a un carabiniere che con la bandoliera di cuoio patascic patascic sulla sua faccettina bianca. Mamma mia! Ho fatto l'urlo del coyotes, padre. Ho attraversato la strada incurante dei candelotti fumogeni che passavano ad altezza d'uomo e anche di donna. Ho brancato il caramba per l'elmetto, gliel'ho spostato appena appena. Poi con educazione mi sono attaccata col dente all'orecchio. Che se non arrivavano dei suoi colleghi a tirarmelo fuori dal dente, io non mi formalizzavo, sa? Lo mangiavo tutto, lo mangiavo. Come? Ma dico, era mio figlio. Ci avevo messo 9 mesi a confezionarlo. Ci avevo fatto tutto, gli occhi, il naso, le orecchie, la bocca. Quel carabiniere lì in 5 minuti, perché me lo rompevo, ma dico, è così mio figlio è riuscito a scappare. Lui. No, io no, sono rimasta lì in mezzo ai carabinieri che per terra, che me ne hanno dato, che m'han deluso, sa? Ma come? Ma fate sul serio, fermi! Ragazzi, sono una mamma! Pam! Niente, botte da orbi, poi mi hanno messo in prigione, mi hanno fatto il processo, come l'hanno fatta lunga per quell'orecchio lì, ma che esagerazione, padre, che poi non era neanche questo grande orecchio, sa? Avevo dato un morsichino, mica l'avevo mangiato io. Il presidente del tribunale, lei ha colpito l'orecchio dello Stato. Una paura. E niente, insomma, mi sembrava un modo ironico, ecco, dove anche mi rispecchio da mamma, ecco, di salutare Franca Rame, una donna che ha fatto tanto per le donne, che sicuramente poi negli ultimi anni ha fatto delle cose che tutti noi abbiamo trovato molto discutibile. Io mi richiamo sempre sull'imperfezione di noi umani, su quella bellezza in particolare che hanno gli umani, quella di non essere perfetti e quindi di avere uno stimolo in più per mettersi in discussione. Quando incontrerò qualcuno che mi dirà di essere perfetto, mi ricorderà uno che camminava sulle acque che non mi torna proprio. E quindi, insomma, chissà come invecchierò io, chissà se da vecchia rimarrò così vetero come sono. E allora, insomma, mi piace ricordare Franca Rame per questo, per quanto ci ha fatto ridere, ci ha fatto ironizzare, ma anche per quanto ha fatto per tante donne, anche ironizzando i loro ruoli casalinghi, i loro ruoli mammoni. E allora, dopo questa cumbietta, noi invece apriremo ai nostri ospiti The Humpies, due giovani musicisti, una chitarra e una voce, che sono qui con noi, quindi godetevi il gruppo Fantasma, perché poi si parla di altra musica. ¿Qué le parece? Yo estoy cambiando los años que van pasando. Día tras día yo estoy empezando. Y le dije, mira mis manos. ¿Qué le parece? Yo estoy cambiando los años que van pasando. Día tras día yo estoy empezando. Para que tu vida cambie, excusas y quejas tontas es lo que tú tienes. Oye, mis labios te doy 3 días para que tu vida cambie. Excusas y quejas tontas es lo que tú tienes. No sensible, de mi espalda. chance. Not really, down the city, hanging your heart to the gates of trading. How would you like to keep you for champagne? Dunque, questi, come avevo annunciato, erano gli Armpits che abbiamo qua in studio. Allora, intanto, benvenuti a Radio Onda Rossa. Grazie. E allora, io ho detto giovani, ma mi sono sbagliata perché questi sono proprio pischelli, cioè proprio non avete idea, io gli davo pure più anni di quelli che dimostrano, ma sono veramente molto giovani, addirittura una minore e una appena maggiore, direi. Quindi insomma, questo a me insomma mi piace ancora di più, nel senso che poi la vostra produzione, anche a sentirla, io forse vi davo qualche annetto di più. Sarà la barba però non t'avevo visto, Allora, intanto raccontateci come nasce il vostro duetto, il vostro duo. Allora, nasce a Ferragosto dell'anno scorso, del 2012, in maniera abbastanza poetica, possiamo dire, per i giorni nostri, no? Era la spiaggiata di Ferragosto, eravamo in Toscana, sulla costa di Tirrenia, quindi tra mi sembra la vostra terra madre dall'accento, sì, ecco. Sì. Tra Livorno e Pisa, sì. E in pratica, in maniera molto semplice, io suonavo la chitarra e lei mi si avvicina e si mette a cantare. E così, siccome insomma mi piaceva, ho detto semplicemente: la folgorata. Perché, sì, diciamo di sì. Ho detto, però sai cantare, che ne dici se una volta, insomma, io ho parecchie canzoni, io non sono tutto sto granché a cantare, magari ci troviamo, te canti, io suono e magari combiniamo qualcosa. E così effettivamente è stato, era una scusa, però alla fine poi è stato quello che è successo, diciamo. E tu hai sempre avuto la passione per il canto, diciamo? Sì, da sempre, sin da piccolo. E quindi insomma così nasce il duo, finché tu ti accorgi che lei sì, però si è trasferita a Roma. Sì, lì per lì sì, non avevo idea. Stavo già a Roma da 3 anni, quindi niente. Me l'ha detto, ormai era fatto, ho detto vabbè, mi sposterò a Roma. Sarà un amore in treno, va bene, va bene, non saranno queste distanze così relative, ecco, a fermarvi. E poi diciamo, questi brani sono vostri o tu già li avevi in cantiere e li hai sviluppati con lei? E la maggior parte dei brani li avevo già in cantiere, nel senso che sì, l'avevo scritti per me, per dei gruppi che avevo, insomma non sapevo bene esattamente con chi farli, con chi suonarli ufficialmente. Ho trovato lei ed è stato l'illuminazione, sì, è venuto da sé. Certo. E diciamo la scelta anche di non andare oltre la chitarra e la voce, perché secondo me poi per molto umilmente, nel senso che sicuramente non sono una musicista e insomma ho la passione, ma non sono molto scoralizzata da questo punto di vista. Riguarda... Sì, però di solito la chitarra e la voce hanno il grosso rischio anche di cadere devastantemente nella monotonia. Esattamente. Invece devo dire, io da quello che ho ascoltato, tra un po' vi proporremo altri due brani, voi avete evitato molto bene questo. Sì, non era una cosa premeditata di evitare la monotonia, nel senso che, oddio, non ci siamo impegnati, è una cosa che ci viene naturale, per fortuna, e anche più che altro... Forse anche per il fatto che, insomma, lui ha studiato più uno stile musicale, io un altro, quindi unendoli vengono tante cose diverse. E quali sono i generi da cui provenite, diciamo? Io più blues, lui più rock, però poi lui aveva scritto comunque... anche delle canzoni acustiche, quindi alla fine tutto un sussurro di cose, molte cose che non erano magari adatte ad essere fatte in acustico, le ho adattate e ho scoperto che veniva fuori qualcosa di interessante, sì, che andiamo avanti su quella via. Tra l'altro io so che state anche lavorando, no? Questi sono i 3 brani, sì, che bene o male mi avete mandato completi, ma so che state anche avete sì, in cantiere altre cose. Sì, perché per fortuna qui a Roma lei ha amici di parenti che ci danno la possibilità di registrare e quindi insomma è stata una cosa parecchio positiva, direi, di spostarmi a Roma, perché finché me ne fossi stato laggiù a Livorno, dove sono nato, e credo che non avrei combinato niente di, insomma, non mi sarei mai aspettato di arrivare a questo punto, registrare e venire addirittura in radio, non me lo sarei mai aspettato. Diciamo che forse poi è un po' abbastanza, è un po' il problema di chi poi si mette a fare musica, che per quanto possa avere entusiasmo e capacità, poi comunque si scontra con un mondo abbastanza chiuso. Sì, è abbastanza chiuso. E poi forse anche la vostra giovane età non vi gioca molto a favore in questo caso. Sicuro no, però avendo anche i genitori musicisti e così, quindi un po' una spinta in più, però alla fine niente. Allora, proponiamo un altro brano, quale dite? The Beauty You Are, direi, eh? Così sì, mettiamo un po' di romanticismo, sì, a questo romanticissimo avvenimento, insomma, che vi ha unito, quindi direi che è la canzone ideale. Adesso non so se sto per farti fare una figuraccia, ma questa The Beauty You Are, diciamo, per chi l'hai scritta? Ti porto alla gogna. L'ho scritto ovviamente per lei, per Ida, e l'ho scritta quando non so, a dire la verità, ad essere sincero, in questo momento faccio una figuraccia, non mi ricordo esattamente il momento in cui l'ho scritta. Beh, la figuraccia peggiore proprio se l'avevi scritta per qualcun altro, Diego, vabbè, ormai sei salvato. Sì. Però vabbè, questa è proprio una dedica abbastanza smielata. La canzone che abbiamo sentito prima racconta la sera in cui ci siamo conosciuti, non è esattamente, però è proprio un racconto. Però in modo abbastanza ironico, anche che comunque anche come ci siamo conosciuti. Sì, la situazione era romantica, noi magari non eravamo proprio il ritratto della del romanticismo. Sì. Va bene, ma poi le situazioni di tensione, ecco. Sì, questa canzone non racconta episodi particolari, è proprio una dedica. Quindi in generale, diciamo, tu da bravo compositore comunque tiri fuori le tue emozioni, le vomiti mettendole in testi comunque, esattamente, no? Esattamente. diciamo che questa canzone è diventata, ora tra i pochi che l'avevano ascoltata fino ad oggi, era diventata una specie di fissazione. diciamo che è stata la più apprezzata, ecco. E anche se però la stiamo riregistrando, l'abbiamo registrata un'altra volta, manca un po' il bridge, sì. Ecco, manca una parte che dia un po' di stacco, sicché stiamo rilavorando anche su questi materiali. E poi la scelta dell'inglese, la scelta dell'inglese è perché io ho sempre preferito l'inglese come lingua, sempre, da quello che ascolto a quando scrivo anche testi, cose così. Io credo che sia un discorso di influenze e di artisti che si ascoltano, perché non so, è un fatto proprio, dipende da chi ascolti, dai testi che ti vai a vedere, delle canzoni che ti piacciono, li traduci e capisci che c'è una lingua in cui sai esprimerti meglio e diventa la tua. Sì. Io ringrazierei in particolare un artista che mi piace molto e che mi ha spinto proprio a fare, mi ha dato proprio quest'idea di duo acustico, Damien Rice. È un artista che non è molto molto conosciuto, è un irlandese. Lui aveva proprio un duo acustico con la sua ragazza, esattamente come noi, e mi ha dato una spinta, mi ha detto però lo posso fare, una cosa romantica, mi piace. E le canzoni di getto mi vengono in inglese, proprio le penso e le scrivo in inglese, sì. Beh, quindi insomma direi che viene da sé poi. Sì. E poi la scelta di questo nome, che vuol dire nome, e come vi è venuto in mente? Allora, il nome è nato principalmente per gioco, diciamo, The Harpies vuol dire le ascelle in inglese. Esatto. E niente, è nato per gioco, non sapevamo che nome dare al gruppo. E niente, dicevamo, se puntassimo sulle parti del corpo, e ho fatto le clavicole, e lui fa vabbè, a questo punto chiamiamolo le ascelle. Io ho fatto però in inglese le ascelle è carino. Esatto. Fatto, allora alla fine l'abbiamo chiamato, infatti così. Suona bene, e poi casomai è una di quelle parti del corpo che chi non mastica proprio bene l'inglese non sa che vuol dire. Esattamente. Quindi copre, vedi che nome figo, no? Esattamente. E vi capita di scrivere insieme anche adesso, insomma? Ora in questo periodo stiamo particolarmente insieme, sicché spesso io scrivo, non so, così, giri di chitarra e magari butto su qualche parola e poi lei le aggiusta, oppure lei scrive proprio testi interi, e a dire la verità è meglio in questa maniera, perché spesso io scrivo, io non sono un cantante, non so cantare, non ho mai studiato canto, diciamo. Lei scrive testi che insomma le sembrano più giusti anche dal punto di vista del cantato. Io spesso scrivo e lei mi dice ma questa cosa non si può cantare, guarda. No. Non, così è, col così mio è strumento non è impossibile. Esatto. E quindi in due si lavora meglio. Quindi speriamo che presto si possa vivere in maniera fissa, o io da lei o lei da me. Quindi forse lei verrà a stare in Toscana. E dai, forse lui qui. Poi ci farete sapere. È una cosa positiva. E poi diciamo che ci sono altri. Cioè, non avete mai pensato anche appunto a farvi anche fosse solo aiutare da qualcuno? Sì. Nel mondo, perché adesso penso che dal vivo, casomai, oppure in questo caso l'essenziale va benissimo. Molte canzoni hanno bisogno di più di quello che abbiamo, hanno bisogno di altri strumenti. Oddio, magari non hanno necessariamente bisogno, però sarebbero molto più carine. Non so, una batteria e un basso possono cambiare tante cose in alcune canzoni che abbiamo scritto e che scriveremo, sicché dobbiamo impegnarci a trovare qualcuno che ci aiuti nelle registrazioni o eventualmente per suonarle dal vivo, però devo ammettere che non è semplice. Anche la scelta del duo è anche basata sul fatto che spostarsi è sicuramente più facile. È semplice. E anche visto che abitiamo lontani, sì, comunque avremo. Poi anche l'età gioca il suo ruolo, perché se dovessimo trovare altri musicisti che hanno la nostra età, bisogna trovare persone veramente motivate. Sì, è difficile. Beh, comincia a diventare un impegno di una certa portata, e forse appunto a 17 anni non tutti sono disposti. Poi non tutti sono disposti, però. O comunque diventa faticosa proprio la continuità. Ecco, sì, esattamente. La continuità è quello il problema. Trovare qualcuno in due che è tutto più facile. In due è tutto più facile, sì, infatti, anche per la musica, incredibile ma vero. Le altre canzoni che abbiamo scritto, in particolare quella che abbiamo qui, quella che non abbiamo ancora mandato, non è una canzone che io ho dedicato a Ida, e non racconta neanche qualcosa che è avvenuto tra noi due. È una canzone che ho scritto, diciamo, da solo, una cosa abbastanza introspettiva, sulla libertà, sullo spostarsi da dove ci si trova, su non stare in un luogo fisso ed alimentare sempre le proprie idee spostandosi comunque. E quindi magari ha un tono più, insomma, più ruvido. Si sente che non è una cosa romantica, si sente che non è una cosa dedicata a qualcuno, è una cosa che ho scritto per me stesso, possiamo dire, ecco. Ok. E allora ce l'andiamo a sentire, si intitola There. Allora, torniamo in voce. Tu mi dicevi che ci sono dei ringraziamenti che vuoi assolutamente fare, perché immagino che poi appunto riuscito ad avere l'opportunità di avere uno studio di registrazione vero, sì, dove poter spendere tempo e casomai non doversi vendere la casa, ecco. Dobbiamo ringraziare questo amico di suo padre, il Babbo Dida, che detto il Ramaccioni o Ciccio Formaggio. Ciccio Formaggio, no, Alessio Ramaccioni, sì. Beh, così quando mi sento dobbiamo ringraziare veramente, perché lui ci ha dato questa possibilità di registrare dal nulla, sì, di registrare gratis. Quello è il punto, perché oggi per registrare ci vogliono, insomma, delle cifre notevoli. Non sono notevoli, e invece lui ci ha offerto questo studio così, senza neanche sapere bene, senza neanche sentire prima la nostra musica. Poi si è accorto che la musica non gli piaceva e ha detto va bene, allora vi porto avanti questo progetto volentieri. E quindi magari in futuro posso anche fare qualcosa di più completo, un disco per esempio. E quindi ma speriamo... noi a voglia, va bene. Quindi, certo. E quindi speriamo. Niente, ora stiamo aspettando, comunque stiamo facendo altri pezzi, perché per adesso sono 7. È una demo, diciamo, per adesso speriamo di farci un disco vero e proprio. Quindi diciamo sicuramente avere dei parenti, dei genitori, una famiglia di musicisti è sicuramente a parte come ambiente di crescita per poi voler cantare o suonare sicuramente aiuta, ma anche da questo punto di vista, però poi sicuramente casomai uno riesce a incontrare anche persone che lo fanno persone come unico scopo fanno, la musica, esatto, e no il mio portafoglio. L'unico scopo è la musica in sé. La maggior parte delle persone oggi lo fa per soldi o ti dice va bene, vuoi registrare, dammi tot, io ti faccio registrare. E invece abbiamo incontrato delle persone che hanno come passione la musica e ci hanno permesso di fare questa cosa. Chissà, al contrario di come funziona poi nel mondo commerciale, invece il vostro essere giovani l'ha visto come dei punti a favore, o insomma tutta una serie di cose che quando ti presenti nel mondo così del mercato della musica invece diventano assolutamente Quindi praticamente poi, a dire la verità, se dobbiamo parlare della storia del gruppo, che poi è un duo, è la storia di noi due che stiamo insieme, essendo una coppia. Non è che affittiamo studi non è che affittiamo sale per provare o andiamo in posti particolari, non abbiamo spese, nel senso ci troviamo a casa, io quando mi va prendo la chitarra e proviamo. Quindi la storia del gruppo è la storia nostra, la storia di noi due. Sì, sicuramente questo vi dà una condivisione particolare. Sì. E quindi diciamo non c'è molto da dire dal punto di vista della storia del gruppo, se non che abbiamo suonato. Ecco, questo mi chiedevo anche se avete suonato a Roma, sì, so che avete suonato, se si può rivedere al Casale Falchetti. Sì. E sul palco in occasione della festa, del primo maggio, e insieme a tanti altri artisti abbiamo avuto anche noi il nostro piccolo spazio, diciamo. Non lo so, personalmente mi sono divertito e sembra che le persone l'abbiano apprezzato. E quindi, insomma, riceviamo apprezzamenti a destra e a sinistra, quindi sì che siamo contenti. Ecco, diciamo che nessuno finora ci ha ostacolato, e questa è una cosa importante. Sì, tanto più appunto che da incoraggiamento, proprio perché si è dall'inizio. La cosa che mi piacerebbe a me non si dice, però vabbè ma qui è stata definita la radio meno italiana. Quindi la cosa che mi dire. Piacerebbe a me fare musica, portare la musica che facciamo noi due, io e Ida, anche ad altre persone. Per esempio a Livorno a me piacerebbe tanto fare un progetto anche più grande, più largo, con altri miei amici che hanno suonato e che suonano da sempre con me. Non so, mi piacerebbe tanto prendere queste canzoni, fare delle canzoni, non un qualcosa di appartenente a un gruppo o a un duo, e dare, che so, come dire, dei copyright, no, tu non la puoi suonare questa canzone. Mi piacerebbe tanto portare la nostra musica ad un livello, ad un punto che si può dire va bene, facciamo un gruppo dove Ida canta, tu suoni la chitarra, io suono l'altra chitarra, tu suoni il basso, insomma, e fare delle cose più questa complete, vostra canzone più rock, per esempio, sì, no? Sì, come se la musica vostra diventasse anche po'. Perché le canzoni che facciamo noi due, il merito della scrittura non è solo mio o suo, ma anche di alcuni miei amici con cui suonavo prima. Io l'ho riadattate e non sono stato neanche a chiedere tanti permessi, l'ho riadattate e l'abbiamo fatta insieme. Quindi non è merito solo nostro, è merito dei nostri amici, delle persone che ci stanno intorno, se riusciamo a fare cose varie, cose simpatiche che non si ripetono. Forse quelle anche, appunto, secondo me è un in più che ha chi fa musica per la musica e basta, no? Per la musica per se stessa, sì. Per cui non devi correre dietro a niente se non alla musica, quindi allora riprendere una musica e farla con un altro genere, reggettizzarla oppure rock and rollarla, non lo so, no? Quindi l'importante è che poi la musica sia cibo anche, esatto, in questo senso. Quindi abbiamo progetti per l'immediato futuro, sì, qualcuno ne abbiamo. Abbiamo idea di suonare da altre parti, vabbè, qui a Roma e poi anche in Toscana. Siamo sempre ovviamente a livello di locali e cose così. Però nel nostro piccolo. È un buon Sì, sì, beh, mi sembra che già appunto esatto. Vedendo l'altre, sì, anche i miei coetanei che sono coinvolti nella musica e che vorrebbero farne, insomma, vorrebbero ricavare il pane da quello che suonano, siamo terribilmente agevolati e molto fortunati. E quindi mi piacerebbe anche coinvolgere queste altre persone nella fortuna che abbiamo avuto. Bello, questo mi piace perché funziona molto anche da incoraggiamento proprio, perché invece penso che fuori da posti come questo o anche quelli che dite che sono i vostri desideri, credo che i giovani sentano un po' questo grande desiderio ma subito un'onda contro, no? Sì, sì, esattamente. Un po' anche la storia, mica livello... vorrai fare l'artista. No, è esattamente così, sì, non è un... è un fatto, sì, vuoi fare, va bene, suoni, però contemporaneamente fai anche qualcos'altro, vero? Lo fai da solo, nella tua camera, ti vengono esatto, a dire, capito? Così, per sfizio. E invece no, detto proprio chiaramente, ci sono persone come noi che lo vogliono fare perché lo vogliono fare per vivere. È vero che non è per niente facile, però insomma, meglio provarci che arrendersi subito. Esatto. È così. Non lo so che altro famiglia. Mi viene in mente da aggiungere rispetto agli Arpiz, a parte il fatto che insomma mi sembrerebbe carino che a questo punto, quando il vostro lavoro sia più là, casomai potete tornare addirittura suonando live, ogni tanto lo facciamo, sì, insomma. Sì, sì, sì, molto volentieri, probabilmente alla fine dell'estate si avrà probabilmente un lavoro più completo, si spera un disco. Dipende sempre da questo Ramaccioni, da questo amico, se ci, insomma, se ci permette di finire questo lavoro, noi verremo molto volentieri. Altre persone che ci hanno aiutato, la sua famiglia, la mia famiglia mi ha permesso, vabbè, ora io ho 19 anni, però insomma mi hanno permesso di fare tutti questi spostamenti, ma hanno anche un po' finanziato, perché diciamocelo, io vengo, mi sposto in treno e sono un bel po' di soldi tutte le volte, e sicché loro mi dicono va bene, dai, c'è da andare a registrare, c'è da andare alla radio, vai, siamo contenti, e ora probabilmente ci staranno ascoltando e quindi li salutiamo, grazie. Chiaramente grandi, e anche grazie alla mia famiglia per tutto, insomma, anche per la spinta artistica che mi hanno sempre dato sin da piccolo. Va bene, allora io non so se non avete nient'altro da aggiungere, non so se abbiamo finito i saluti. Sì, i saluti, la famiglia, gli amici e chi ci permette di registrare e di fare tutte queste belle cose, credo, mi sa che non dobbiamo ringraziare nessun altro, e le influenze che vengono, la tanta musica di cui vi cibate anche fuori voi, dall'Italia, anche un po' dentro, a dire la verità, a livello proprio di cantautori e cose così che ispirano. Va bene, allora io vi ringrazio e poi noi ci riaggiorniamo per sapere come procede il vostro lavoro, e noi continuiamo con Le Schiene del Sole ancora per un pochino. De salir por las noches, me he quitado de beber y conducir. Lo que antes me llevaba de cabeza pasa ahora por delante de mí. Con los años, soledad es un regalo, linda amistad, si la has cuidado. Amor viene, amor se va, siempre hay uno que duele más. En esta triste selva, gente aburrida de sus vidas no más. Desilusiones en la esquina te esperan, en cualquier calle de cualquier ciudad, sin darte cuenta otra. otros invitados llegan, gente nueva, gente buena. En el pasado crece hiedra, mala hierba, déjalo pasar. La bellissima voce di Amparo Sanchez, insomma, dopo i giovanissimi Ampiz al 1801. Noi tra un po' stiamo facendo una telefonata con un compagno di Aure Marco, dove sapete domani si svolgerà un'iniziativa a sostegno di Alberto e Marina. Tra un po' vi manderò lo spot, poi parleremo anche con lui. Intanto dicen que pena un santeto, bajito y oigo que dice camina despacito y mamá, camina despacito. No vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Será tu zapata el que escucho aquí, con tu luz perpetua en tus ojos vi. En mi mente se oye que me dice así. Por la sombra de la ceiba se escuchó un disparo y cayó un gallo negro por la calle de milagros. Si tú dices que me quieres con el todo al todo y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Una bellissima Lila Down con Celso Pigna, Totò la Momposina, che camminano così in una loma che direi colombiana potrebbe essere. Un video che vi consiglio di vedere, visto che Totò la Momposina la passo spesso a questi microfoni, così appunto da ritenendola un po' veramente il mito della musica colombiana, quella che rivendica tutte le radici che ha, quella nera, quella india, le melodie ispaniche. Il Messico e la Colombia dunque si incontrano, la voce di Lila Down, Totò la Momposina, l'accordeon di Celso Pigna. Si tú dices que me quieres con el todo al todo y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo se dibuja el sereno por todo mi camino. Zapata se queda, il titolo di questo brano, mentre sono le 18.05 minuti, allora è il tempo che io saluto i miei ospiti e poi al telefono con Andrea, Diaro e Marco per parlare della serata di domani, così niente di che, giusto per rinfrescarvi le idee. E sempre con Celso Pigna rimaniamo. Esta copia se ha acabado. allora eccoci qui, come vi avevo avvisato, come vi avevo detto, siamo al telefono con Andrea, il compagno del centro sociale Aure Marco, con cui insomma da un po' ci siamo inventati insieme alla radio questa iniziativa di domani. Allora, ciao Andrea, dove sei? Che fai? Stai a cucinare già? Gli ascoltatori, siamo qua a Spinaceto al centro sociale. Già a cucinare per domani addirittura? No, non ci credo. Ci stiamo organizzando perché le cose sono un po' da fare, le forze sono sempre quelle. Allora, ricordiamo un po', così domani ci saranno diverse cose, un po' di sperimentazione, un video che riguarda Genova, poi ci sarà la cena. Domani sarà questa giornata informativa caratterizzata da vari contenuti, tra cui si inizia verso le 7:30, le 8, ci sarà la sperimentazione di filosofia insieme al gruppo del COXA. È un esperimento molto interessante, non serve essere professori di filosofia oppure avere una cultura filosofica, ma è un progetto molto interessante che sarebbe molto buono se molti ascoltatori riuscissero a venire per quell'ora. Si facessero venire. Poi la curiosità, esatto. Scusa, non ho capito. No, dico incuriosirsi per questa cosa, perché appunto quando me l'hai spiegata poi è una cosa molto carina, molto trasversale, appunto ricordiamo che riguarderà il conflitto, di cui insomma in un modo o nell'altro a Roma se ne sta parlando molto, assemblee, incontri, diventa un tema sempre più parlato, discusso, no? Analizzato. Certo. Ok, dopo la sperimentazione ci sarà la cena e insieme alla cena comunque sarà un video, sì, verrà proiettato un video informativo, analisi di un reato politico, e credo che sia buono perché è uno spunto anche di riflessione, spero che ci sia proprio durante la cena e dopo la cena uno spunto per parlare proprio del clima politico e proprio per fare informazione soprattutto all'interno del centro sociale. Questo è lo scopo dell'iniziativa. Io ricordo tra l'altro che per venire alla cena potete prenotarla, visto che appunto non è che ci vanno due fili e basta, e lo potete fare tramite la mail cenauroemarco tutto attaccato @autistici.org, così casomai gli diamo una mano a avere un'idea, anche se chiunque venga da mangiare non mancherà. Sì, la sottoscrizione per la cena è 10 euro, vanno a sostegno come benefit per Alberto e Marina. Poi dopo, tra l'altro, c'è un compleanno anche nella serata, no? Sì, ci sono i ragazzi qua che si chiamano Ghetto Paua, festeggiano 3 anni di attività e abbiamo montato gli impianti che ci sono qua al centro sociale, Ria Rock più il Ghetto Youth restaurato, e ci sarà invitato anche Seco, dai pure te, e insomma ci saranno tanti amici durante l'iniziativa, che sarà anche a ingresso a sottoscrizione libera, a entrata libera, ok. Sì. Va bene, senti, scusa. Allora rinnoviamo l'appuntamento per domani, insomma il programma ve l'abbiamo detto, è un modo in più per tornare a Aure Marco, io ci sono tornata un po' dopo tanti anni, insomma una sorpresa anche lì, tantissimi giovani, quindi insomma ci vediamo domani alla cena. Sì, Spinaceto poi non è troppo lontano comunque. No, infatti, ormai per le distanze di Roma. Centro comunque si trova a via dei Caduti della Guerra di Liberazione 268, l'uscita del raccordo è la Pontina. Va bene Andrea, allora grazie e a domani sera. Ok, un abbraccio Marta, ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao. No sé si me querés, no sé si me engañás, no sé si volveré, no sé si volverá. Está todo bien o está todo mal. Tomo para no enamorarme, me enamoro para no tomar. Tomo para no enamorarme, me enamoro para no tomar. no laburás, yo te mantengo y no te bañas. O te lavo los pies, o te lo lavo yo. ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto me das? ¿Cuánto querés? ¿Cuánto cobras? ¿Quieres ser boludo? Pues boludo soy yo. Grandissimi di Onda Tropica, non mi stancherò mai di sentirlo, spero neanche voi, visto che va proprio spesso alle 18:19 minuti. Stiamo per chiudere, ma dopo tanta tradizione e tanta musica invece andiamo a fare proprio un tuffo nell'elettronicizzazione della musica. We'll be right back. terrible listening, huh? Ok, Pedrolito for the rock. Capitan Cumbia si chiama lui, un folle pazzo completo. Cumbia style. Che, come vi dico, ogni tanto si diverte a mixare la cumbia con un po' di musica balcanica. Questa volta un mischione incredibile. Vabbè, insomma, quello che succede è che Captain Cumbia mette insieme Mr. Vegas con l'Amsterdam Klezmer Band e Boban Markovic. Poche le cose da aggiungere. Intanto vi ricordo che voi siete sempre all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa, ormai detta piccola grande radio. Effettivamente, insomma, chi ha avuto il piacere di visitare i nostri studi si è reso conto. L'essenziale più qualche lavagnetta, adesivi quanti ne vuoi, qualche poster, l'odore caratteristico di questa radio. Una radio che potete così aiutare a continuare la sua bellissima esperienza. Quella di essere una radio libera e senza padroni, senza pubblicità, lo potete fare sottoscrivendo al conto corrente postale 61 80 40 01 da intestare a Radio Onda Rossa o a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001 a Via dei Volci 56 00 185 Roma, oppure lo potete fare dal sito www.ondorossa.info, che oltre a sottoscrivere vi dà anche tante informazioni su questa radio e di questa radio, delle informazioni che questa radio fa, dalle trasmissioni così alle notizie, diciamo ormai nome di fonte antagonista, perché questo sono i nostri GR, insomma, di tutto di più. Beh, direi che siamo veramente in chiusura. Questo pezzo va avanti per una quantità infinita di minuti. Veramente un bel mischione, però, no? Che dite? Va bene, però quando sono le 18:23 io piano piano lo sfumo per condannarvi alla sigla. Che sapere che la cumbia sia il futuro. La sigla. E allora non c'è bisogno che io ve lo ripeta, perché ne abbiamo parlato abbondantemente. Ci vediamo alla cena di domani sera a Ore Marco dalle 19:30. Per chi ci riesce, può essere divertente scoprire la filosofia orizzontale, scoprire appunto, questa volta il tema sarà il conflitto, come abbiamo detto. Poi una ricchissima cena, tanta informazione e la dance hall. Allora, quando sono le 18:24 minuti, los paramilitares desaparecieron mis dos hijos. Io vi rimando a giovedì prossimo, come sempre, senza dimenticare di mandare un saluto a tutte e tutti coloro che non possono godere della propria libertà. Metropolitana para aunar en protesta por la falta de entrega de fondos estatales destinados a sus proyectos de viviendas populares en la capital argentina. La esquina del sol, tutti i giovedì dalle 17:87 e 9 di Radio Onda Rossa. Se tiene que unir para luchar para que la crisis no la pague el pueblo. Nosotros queríamos la mitad del poder, no lo queríamos todo. Tutti i giovedì alle 17 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Los jueves a las 17, La Esquina del Sur, con mi frecuencia de Radio Onda Rosa. Lluvia, con nieve. All'improvviso appare all'orizzonte, una mosca passeggia tra il naso e la fronte. Il mostro sembra stanco, ondeggia sulla striscia. Fari sull'asfalto, qualche gomma un po' liscia. Sorridono in cabina e il viaggio è seguito.